Mix 24 di Giovanni Minoli. Fassina è out, fuori dalla competizione per il Campidoglio, respinte dalla commissione elettorale le sue due liste. Fassina prova a esorcizzare così lo spettro di una corsa per il Campidoglio senza di lui. Il gioco elettorale sarebbe falsato, dice. Sarebbero tra i 70.000 e i 100.000 elettori romani che non potrebbero votare l'area politica, il progetto, la proposta in cui si riconoscevano. Il candidato di Sinistra Italiana SEL ha fatto ricorso. I giudici amministrativi decideranno entro pochi giorni. Dimmi come fa uno a risolvere i problemi di una città come Roma se non riesce nemmeno a compilare dei moduli. Vabbè, onorevole Fassina, buongiorno. Crozza fa il suo mestiere. Ma c'è del vero però quello che dice. Chi ha sbagliato? L'avete capito? Ma guardi, i moduli, in alcuni moduli manca la data. Chi ha certificato, la persona che ha certificato, ha firmato, ha messo il timbro e ha dimenticato di mettere la data su alcuni moduli. Le firme ci sono tutte, anzi nel numero massimo. Ma era un errore facile da fare oppure cioè comprensibile? Ma è un errore. Evidentemente mi sono assunto la responsabilità politica. Domani mattina ci sarà la decisione del TAR. Sì. Il punto è che la data è necessaria a confermare che le sottoscrizioni sono avvenute entro il 180esimo giorno. Vabbè, d'accordo, dalla presentazione delle liste. E la persona che ha certificato è stata nominata vicepresidente di municipio e quindi ha assunto il potere di certificare a fine dicembre, quindi senta, ampiamente dentro l'intervallo dei 180 giorni. Questo senta, ci fa sperare che il tribunale possa riconoscere la sostanziale validità delle firme apposte. D'accordo, senta, ma politicamente c'è chi dice che intorno a lei qualcuno gliel'ha tirata, è possibile? Guardi, ripeto, la responsabilità politica è la mia e me l'assumo e guardiamo con fiducia alla decisione di domani. Come? Sì, la decisione di domani, a fare campagna elettorale. Certo. Ieri ero a San Camillo, stamattina vado all'assemblea dell'Associazione dei Costruttori Romani e poi ad Ostia. Siamo convinti di poter dimostrare le nostre ragioni. Senta, intanto Giachetti però si allarga sui suoi potenziali voti con candidati di sinistra, lo teme? No, non lo temo perché gli elettori che guardavano al nostro progetto sanno bene che vi sono differenze di fondo molto rilevanti e che candidature o nomine nella squadra che potrebbe comporre la giunta non risolve il problema. Abbiamo differenze strategiche su Roma. Certo, senta, ma se voi tornate in gara, qual è la vostra priorità assoluta? La nostra priorità assoluta è la rinegoziazione del mutuo che Roma ha con Cassa Depositi e Prestiti per 5 miliardi, che vuol dire 250 milioni che ogni anno vengono sottratti al bilancio di Roma, e vogliamo utilizzare queste risorse per ridurre l'IRPEF, a cominciare dai redditi più bassi, per dimezzare la tariffa sui rifiuti per le botteghe e i negozi che per 2 anni di seguito non fanno utili, per stabilizzare le insegnanti e le operatrici degli asili nido. Senta Fassina, ma per esempio, per essere concretissimi, a Roma esiste un problema gigantesco di topi. Ecco, voi come lo affrontereste il problema dei topi? Il problema dei topi ha a che fare ovviamente con la pulizia delle strade, con la raccolta dei rifiuti, quindi è fondamentale far funzionare in modo efficiente l'AMA e tutto il ciclo dei rifiuti. Noi riteniamo che l'AMA vada radicalmente muta e trasformata. Va fatto, oltre a un contratto quadro con Roma Capitale, vanno fatti poi contratti di servizio con i singoli municipi, dando la possibilità di controllo anche alle associazioni di cittadini in modo che gli obiettivi vengano realizzati. Senta Fassina, se domani tutto va bene il TAR le dà ragione. Vabbè, tutta questa pubblicità è stata utile a trasformare una crisi in un'opportunità, mi pare, no? Sì, anche se avremmo preferito evitarla, ma perché alla fine potrebbe risultare utile, se va bene. Potrebbe risultare utile nel senso che abbiamo certamente avuto più visibilità. Senta, ma lei ci crede al fatto di Sala? Panorama oggi dice che Sala non sarebbe candidabile perché non si è ancora dimesso dall'Expo. Ne sa qualcosa? Ma mi ha piuttosto preoccupato quella notizia, il fatto che abbia firmato dei documenti ufficiali della società di cui era commissario dopo la data che avrebbe dovuto indicare la sua cessazione. Sarà un problema per il PD a Milano quello? Sicuramente è un problema che devono risolvere, un problema rilevante. Senta, non un problema marginale, no. Non è l'assenza di una data, no, è un modulo. Certo, un'ultimissima domanda perché siamo fuori tempo massimo. Soddisfatto del voto di ieri sulle unioni civili? Sì, anche se è stato un voto su un testo mutilato dalla stepchild adoption. Tuttavia è sicuramente un importante passo avanti. Abbiamo votato no alla fiducia e sì al provvedimento perché comunque in questo modo centinaia di migliaia di nostri concittadini vedono regolata la loro situazione. Ecco, 800 24 00 24 per le telefonate, 349 238 6666 gli sms. Quello è il presidente della banca, un gigante della finanza. Un gigante. Ecco che interviene Atlante. Fondo di stabilizzazione del sistema bancario che presterà soccorso in caso di difficoltà negli aumenti di capitale e nella gestione di crediti in sofferenza. Si fa carico degli impegni assunti da Unicredit, risultato: nessuna banca rischia di fallire e il sistema del credito si stabilizza. Sacchetti della spesa vuoti. Ha già raccolto circa 5 dei 6 miliardi, ma la domanda è: basteranno? Secondo il Wall Street Journal non basta. Non sono problemi che si risolvono solo con i soldi e i fondi messi a disposizione non sono abbastanza. Ecco, per mettere in sicurezza le sofferenze delle banche è stato creato il Fondo Atlante. Antonio Patuelli, presidente dell'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, buongiorno. Buongiorno, ecco, a lei. Presidente Patuelli, il Fondo Atlante è stato accolto con scetticismo dalla borsa perché i 5 miliardi sono pochi? Guardi, le borse non sono come i termometri per provare la febbre, sono un qualcosa che si muove per meccanismi i più diversi, il più di volte speculativi, magari legittimamente speculativi. Ma il Fondo Atlante è una iniziativa tutta privata, assolutamente innovativa in Europa, che lavora e lavorerà sicuramente bene. Senta, ma lei pensa che sono sufficienti 5 miliardi ma o cresceranno? Ma bisogna partire con la valutazione, certo, della novità e dello strumento e di quello che si è fatto. Poi non è questo l'unico strumento per far fronte ai deteriorati. Quindi è il primo di altri strumenti che possono essere messi in pista. Ma sono anche messi in atto dal governo della Repubblica Italiana e in più dobbiamo dire che da 2 mesi, come certifica anche la Banca d'Italia, le sofferenze nette, che sono quelle vere, peraltro, stanno calando. Ecco, Ignazio Angeloni, però, che è un membro della vigilanza della BCE, uomo di Draghi, dice che il Fondo Atlante da solo non basterà a dare una svolta. E allora servono di più questi strumenti a cui fa riferimento lei? Sicuro, tutto è utile e deve essere convergente a voltar pagina. Peraltro, nelle commissioni parlamentari del Senato ha incominciato il suo iter in questi giorni l'esame del nuovo decreto legge del governo, dove si anticipano alcune riforme relative al diritto parlamentare, particolarmente alle esecuzioni. Ecco. Anche quello servirà ad avere dei tempi più vicini alle medie europee. Presidente Patuelli, però, per esempio, la Banca Popolare di Vicenza, che adesso è al 99% nelle mani del Fondo Atlante, il mercato gli ha rifiutato la sottoscrizione. Che cosa succede adesso? Guardi, la domanda bisognerebbe porla alle autorità di vigilanza. io rappresento un'associazione privata che non ha flussi, diritti e doveri della vigilanza. No, ma la sua opinione è autorevole, la però. La mia opinione personale è che ci sia un proprietario alla Popolare di Vicenza, che si chiama il Fondo Atlante, fatto da professionisti molto qualificati che hanno tutto l'interesse a riorganizzare e rilanciare la banca mettendola sul mercato. L'interesse, ecco, è sicuramente il medesimo di operazioni che sono state fatte negli anni scorsi in Europa da istituzioni pubbliche. Qui la differenza è che viene fatta non dal pubblico ma dal privato. Ecco, ma da un privato qualificato. Certo, dottor Patuelli, ma il decreto sui rimborsi varato dal governo, secondo lei è sufficiente per rifondere i risparmiatori? O si doveva fare di più? Io spero proprio di sì, perché non ci sono precedenti similari. E peraltro quel decreto dà delle vie più celeri per i rimborsi, ma esistono sempre i tribunali della Repubblica ai quali chi non fosse convinto può rivolgersi. Di quel decreto si può rivolgere. Ecco, ma il presidente della Consob Vegas l'altro giorno ha detto che la responsabilità in realtà non è dalle banche ma dai dei sottoscrittori. Non è un po' troppo? Guardi, qui io non sono né un vigilante né un magistrato. Allora, è la Consob che esamina preventivamente i prospetti informativi scritti. Poi, se qualcuno, invece che fornire quei prospetti in una o in più delle banche andate a gamballaria nell'autunno scorso e poi salvate, se qualcuno a voce diceva delle cose diverse da quelle scritte nei prospetti, beh, questo lo può sapere solamente chi l'autorità giudiziaria no, che sta facendo delle approfondite inchieste. Senta, dottor Patuelli, la Germania adesso vuol mettere il tetto al possesso dei titoli di Stato da parte delle banche. È una manovra contro l'Italia? Beh, chiaramente fa parte della dinamica della guerra economica. La Germania ha banche molto esposte in derivati, non molto modernizzate, e di conseguenza guarda i problemi degli altri e dimentica i suoi propri. Rimane il fatto però che la Germania è rimasta molto minoritaria all'ultimo vertice europeo e che la competenza su queste materie è stata individuata nel Comitato di Basilea, dove siedono i governatori di tutto l'Occidente, compresi quelli degli Stati Uniti, che hanno opinioni diverse da quelle diverse. Certo. Ecco, presidente Patuelli, di fronte alla crisi, a questa crisi bancaria che fortunatamente non ha portato alla fuga dei depositi, però i depositi stanno incrementando. No, infatti dicevo, però cosa fate per recuperare la credibilità, cioè l'informazione delle regole più stringenti per la chiarezza delle informazioni? Le state elaborando? Da quando è venuto fuori il caso di queste quattro banche a novembre abbiamo sostenuto fortemente l'idea giusta lanciata dal Sole 24 Ore e dal direttore Napolitano per delle schede prodotto diversificate. In sostanza, i prospetti informativi contengono tutti gli aspetti giuridici, economici, sì, relativi al prodotto, però bisogna, oltre a quelli, dare una scheda al cliente potenziale che sia semplice, chiara, eloquente e diversificata per tipologia di prodotto. Ecco, un'ultimissima domanda, presidente. Di fronte comunque a questo rivolgimento che c'è nel mondo bancario, esiste un problema di qualità del management bancario? Guardi che prima di tutto il management bancario è in competizione quotidiana, sì, e di conseguenza è estremamente diversificato, non è la media di Telus. In secondo luogo vi sono dei requisiti per essere dirigenti o amministratori delle banche, dei requisiti di legge che sono molto più elevati che essere amministratori di omologhe per dimensione società di altro genere. Di conseguenza dice vabbè, la garanzia è quella, insomma. La garanzia è data peraltro dai vigilanti BCE Banca d'Italia. Vabbè, i problemi che abbiamo vissuto con le banche hanno intaccato o no la fiducia nel sistema? Questo è un interrogativo. La reazione del governo è convincente? 800 24 00 24 per le telefonate, 349 238 6666 per gli SMS. In attesa di sentire i nostri ascoltatori. Mario, ti ha convinto Patuelli? Fa ovviamente il suo mestiere, il presidente dell'ABI, quindi cerca di no sul sistema. Il problema vero è il mercato, che per ora non crede, diciamo, all'efficacia al 100% del fondo Atlante, anzi lo giudica di fatto insufficiente. C'è sicuramente una quota di speculazione, per carità, però insomma di base il tema è questo. Ecco. E poi c'è un tema invece di lungo periodo, medio e lungo periodo, perché coi tassi negativi tenuti così le banche non hanno nessun margine o quasi di guadagno, quindi rispettare tutti i criteri di bilancio imposti dall'Europa, dalla BCE, non sarà facile. Senti, secondo te Pietrangelo ce la farà l'Europa a darsi delle regole che siano nell'interesse di tutti? So che non è il tuo tema, però può darsi che un'opinione te la sei fatta. Certo, e fin tanto che l'Europa non sarà un progetto politico, non potrà darsi delle regole, perché una cosa sono i numeri, una cosa è la vita della gente in carne e ossa. Siccome la situazione è quella per cui oggi lavoriamo molto più di prima e guadagniamo per 4 volte meno rispetto a prima, le risposte pretendiamole dalla politica, non certamente dalle banche, che hanno tutto l'interesse invece a salvare se stesse. Certo, e quindi le banche, la politica, sentiamo la politica allora. Francesco Boccia, buongiorno, presidente della Commissione Bilancio e Tesoro della Programmazione della Camera. Lei ha aiutato anche il governo nella stesura del decreto salva banche. Ecco, onorevole Boccia, il fondo Atlante, come abbiamo visto, non convince i mercati. Secondo lei perché è insufficiente? Ma non convince i mercati fino in fondo, perché, come diceva anche Patuelli, è una parte del problema quello che affronta Atlante. Atlante ovviamente non ha le risorse necessarie per risolvere tutti i problemi che fanno riferimento agli aumenti di capitale e allo smaltimento delle sofferenze. E allora che cosa deve fare il governo per convincere i mercati in aggiunta alla posizione di Atlante? Il governo deve continuare su questa strada, deve aumentare le risorse che arrivano indirettamente ad un sistema che evidentemente ha messo troppa polvere sotto il tappeto. Oltre alle risorse, io penso che siano insufficienti i 4 miliardi e mezzo, avevo già dichiarato che sarebbero stati necessari da 9 a 12 miliardi per affrontare gli aumenti di capitale e lo smaltimento delle sofferenze. Il governo deve continuare a fare quello che sta facendo e deve costruire norme che consentano un'accelerazione delle procedure. Oggi francamente il sistema aiuta i debitori e mai i creditori. Infatti vediamo fallimenti da eccesso di credito nel Nord-Est. Ecco, voi avete scritto un decreto per i rimborsi dei risparmiatori di Banca Etruria e degli altri istituti insolventi, però i risparmiatori continuano la loro protesta, hanno torto? No, i risparmiatori devono semplicemente aspettare la chiusura di questa procedura, che è stata più lunga del previsto. Come lei sa, l'ho detto anche in Parlamento, quelle vicende andavano affrontate extragiudizialmente dal primo momento in cui sono scoppiate, perché era evidente che quelle obbligazioni subordinate erano state vendute raggirando quei risparmiatori, e quella vicenda poteva incidere, come inciso, sull'intero sistema finanziario italiano. Devono avere semplicemente un po' di pazienza in più, perché l'ultima proposta contenuta nel decreto che è in discussione al Senato consentirà il rimborso quasi integrale dei risparmiatori delle quattro banche. Pazienza, però il presidente della Consob Vegas, come dicevo già anche a Patuelli, ha detto che sono gli investitori responsabili delle loro perdite. Qua mi sembra che sia rovesciata la frittata. No, ma non si riferiva a quelli delle quattro banche. Io penso che gli investitori di quelle quattro banche siano stati raggirati e auspico pene esemplari per chi ha sbagliato. Ora, ogni giorno escono notizie nuove sui comportamenti anche scritti dei vertici di quelle banche, Etruria compresa. Io sono rimasto abbastanza sorpreso perché francamente che si dica oggi che c'era una circolare, io non ho mai visto circolari clandestine, se c'era una circolare perché era appunto circolata, quindi penso che le notizie vere, diciamo quelle che l'opinione pubblica si aspetta, le pene esemplari, non possano essere queste. Mi auguro che l'indagine vada avanti celermente, perché non si può anche qui perdere tempo, e che vengano sanzionati pesantemente coloro che hanno sbagliato, perché hanno indotto la gente a confondere il risparmio con l'investimento. Sì. Sono due cose diverse. Naturalmente. Da parte soldi. Certo. Molti pensavano di fare deboli, quello. Chi fa un investimento ha un altro approccio. Molti pensavano di fare. I risparmiatori di quelle banche volevano semplicemente risparmiare. Ecco, onorevole Boccia, per favorire la ripresa, adesso il ministro Padoan ha annunciato un provvedimento di detassazione per chi investe nelle imprese. Esattamente di cosa si tratta? No, si tratta di un provvedimento che consente alle imprese che investono di avere ulteriori sconti fiscali. Io penso che sia necessario, in parte è stato fatto in passato con il primo governo Prodi e ha funzionato. Ora vedremo quali sono i meccanismi che Padoan presenterà al Parlamento. È una cosa utile e necessaria. Onorevole Boccia, Berlusconi sta preparando un programma per una riforma fiscale totale che rivede il sistema di tassazione e che parte da un condono. Ecco, lei è d'accordo su questa impostazione o no? Sì, assolutamente sono d'accordo. Sì. Penso che sia necessario andare avanti su questa strada. Ovviamente va fatto in un quadro generale che tenga conto soprattutto della condizione di una parte delle famiglie italiane. Certo, che ma hanno risulta anche ancora bisogno di ulteriori spinte. Ecco, ma risulta anche a lei che Renzi stia pensando a una riforma fiscale radicale? Penso sia necessaria perché il nostro sistema è una selva. Sì. Io ho condiviso l'approccio utilizzato in questi ultimi due anni sulla riduzione anche sul bilancio triennale delle imposte e, come noto, non ho condiviso che si sia iniziato dalla casa, aveva più senso partire da IRPEF e IRES, però sì, penso sia necessario, soprattutto la finanza locale è una selva da cui difficilmente si esce vivi. Senta, è necessario far chiarezza. Onorevole Boccia, con il PIL che cresce dell'1% più o meno e l'inflazione ferma, il rapporto tra debito pubblico e il PIL non può diminuire e quindi addio a tutti i sogni di gloria nella riduzione del debito. No, quei sogni di gloria non vanno mai abbandonati. Dobbiamo continuare a sognare, diciamo. Quella direzione va perseguita, bisogna avere ancora molta pazienza, più coraggio, nel senso che più coraggio cosa vuol dire? Significa liberare investimenti pubblici. Ne facciamo ancora pochi, siamo sotto il 2% gli investimenti complessivi. Un paese non riparte se non fa almeno dal 3 al 3,5% di PIL di investimenti pubblici, non li facciamo anche a causa di vincoli incomprensibili europei. Lì stiamo lottando. Senta, nell'ultimo mese lo spread tra il BTP e il Bund è passato da 120 a 140 punti. È il segno che i mercati non credono che l'Italia possa raggiungere il suo obiettivo di bilancio, mi pare, no? No, è segno che i mercati... Insomma, il rischio Italia sta di nuovo aumentando sui mercati, per dirla semplice. È segno che i mercati non capiscono cosa succede in Europa. Se ogni volta dobbiamo ridiscutere, stiamo parlando dell'Italia anche, di alcuni paesi, aver chiesto con quella forza, diciamo, il tetto per le banche nei propri portafogli di titoli di Stato, indirettamente quella era una minaccia ad alcuni paesi, tra i quali l'Italia, non ha aiutato. Era la Germania contro l'Italia, l'ha detto anche Patuelli. Ma è evidente che la Germania ha altri interessi, ma deve capire che non, non si può andare avanti così. Così. Senta, un'ultimissima cosa, onorevole Boccia. L'efficienza del Parlamento, di cui lei è un autorevole rappresentante, significa che i decreti attuativi debbono essere immediati, perché se no si chiacchiera, si parla, si fanno anche le leggi, ma non capita niente. Quanti sono quelli che giacciono fermi nei cassetti del Parlamento? No, guardi, sono calati del 20-22%. Cioè, quanti restano? All'anno precedente. Guardi, non ho il dato, ma grosso modo, aggiornato, però sono ancora alcune centinaia. Alcune tanti. Centinaia? Ce ne sono ancora del governo Letta oppure sono tutti del governo Renzi? No, ora penso che siano stati smaltiti quelli dei governi precedenti. Sono passati 2 anni. Questa è una malattia del modo di fare legislazione in Italia. Io posso garantirle una cosa: in giornata depositiamo la riforma del bilancio dello Stato, il nuovo bilancio dello Stato, e non ci saranno rinvii a decreti di attuazione. Se il legislatore che firma una legge e la propone si impegna a non fare decreti di attuazione, di solito il decreto di attuazione è il rinvio di una decisione. Appunto, cioè una decisione presa che non è stata decisa. È una sostanzialmente decisione presa che non è stata. Non c'è il coraggio di andare fino in fondo. Dice, vabbè, abbiamo deciso, ma non è vero. Ecco. E tutto questo finirà con la riforma del sistema istituzionale italiano, un monocameralismo. Questo è un augurio che ci facciamo reciprocamente. Ah sì, no, io lo chiedo a lei perché lei è più esperta. Guardi, questo dipenderà da come la nuova Costituzione sarà interpretata, perché poi molte leggi ordinarie dovranno essere fatte. Va bene, grazie onorevole Boccia. Grazie. Giuseppe da Roma. Da Roma. Giuseppe, eccoci, buongiorno. Qui. Pronto? Lo sento poco. E io quasi niente, mi dica. Allora, solo questo, far passare il concetto di ingiustizia sociale. Noi aiutiamo le banche, mentre le banche a noi tolgono la casa e pignorano addirittura le pensioni di invalidità. Solo questo. Non è giusto aiutare chi poi non dimentica e persegue i poveri che hanno perso il lavoro. Ha ragione, perfettamente. Solo questo. Un fondo Atlante anche per coloro che non possono più pagare eventuali sanzioni, eventuali recuperi e non hanno più casa. Mario, grazie Giuseppe. Mario, lo scenario di Boccia, che sensazione hai? Beh, ovviamente molto diplomatico, ma si coglie l'incertezza dello scenario. Dobbiamo aspettare il 23 giugno il Brexit, quindi il voto della Brexit sulla permanenza meno in Europa. Il 26 giugno si vota in Spagna, il 24 c'è un vertice straordinario sulla Grecia. E poi novembre le elezioni americane. Questa è l'agenda globale che influenzerà moltissimo tutto quello che sta accadendo anche a casa nostra. Ma secondo te Berlino avrà bisogno di Roma di più di quanto è stato fino adesso? Sì. E l'Europa troverà un'anima intorno a cui riaggregarsi, Pietrangelo? L'Europa, per trovare un'anima in cui riaggregarsi, dovrebbe mettere d'accordo quello che ci ha detto adesso il nostro ascoltatore da Roma, dovrebbe mettere d'accordo quelle che sono le esigenze vere di emancipazione, reali. Perché stiamo attraversando una crisi che neppure nei primi del Novecento i nostri antenati avevano subito. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS, pubblicità. Mix 24. Outside another yellow moon, it's punched a hole in the night time, yes. I climb to the window and down to the street. I'm shining like a new dime. Mi fanno segno che vogliono sapere dalla regia chi la dedica. Canzoni da viaggio, canzoni da viaggio nel sottofondo dei fischi di stazione, nel dilagare di campane al risveglio. E sono canzoni carta vetrata, perché strofinano il cuore delle donne e approfittano sempre del momento in cui il treno va piano e quando c'è spazio per chi è stato alle porte della luna. Non ci crederete, ma stamattina abbiamo ricevuto una chiamata e una formale protesta dalla Volkswagen con una domanda: ma perché non ci sono più dediche al maggiolino? Mamma mia. Allora Mario, vabbè, che ci racconti stamattina? Guerrera, cosa hai messo in scaletta? È una settimana che provo a mettere questa, alla fine c'è riuscita. Mi sono distratto un attimo. Ma stamattina non è di buon umore. Blondie, One Way or Another. Allora, sì, va pure bene, perché in fondo tutto questo ritmo. E scenari di guerra, di strategia in Europa. Vabbè, sui, insomma, sui giornali non è che se ne parli molto di queste cose. Però in realtà sono la ciccia vera alla fine, come sempre. Esatto. Allora, gli Stati Uniti piazzeranno in Romania, parliamo di acqua, di mare, non di terra. Poi magari vi spiego anche perché, se volete. Un sistema missilistico Aegis che entrerà in funzione nel 2018 anche in Polonia, al largo della Polonia. Il Pentagono dice serve a difenderci dai missili a lungo raggio degli iraniani. Ora, vabbè, ok. I russi dicono, no, li avete messi invece per mettere noi sotto tiro con i vostri missili. Allora, la considerazione politica è che l'era Obama si chiude di fatto con un riarmo missilistico in Europa, a est. Secondo me questo è veramente sintomatico. Cioè, l'est si riarma e la NATO sta ferma. No, al contrario, la NATO si sta muovendo, i russi dicono vabbè, ma se è così allora, pure è, noi, allora è guerra di nuovo, allora parliamone. No? È molto interessante. Tieni presente, il sistema Aegis è una delle cose più sofisticate che c'è nel mondo degli armamenti. È utilizzato dalle navi da combattimento americane. È un sistema integrato, ipercomputerizzato, precisissimo, che se si rompe un chip salta tutto, quella roba lì, come ieri sulle navicelle. No, beh, è un sistema di combattimento molto evoluto, c'è cioè dagli anni 80, della Lockheed Martin. Salamino! In principio fu Giovanni Boccaccio il Decameron, fondamento di commedia e scienza dei costumi. Siamo? Sono pronto! Finalmente! Vai! Appena trovo, illustrissimo! Che cerca? Sta cercando adesso io. Ho trovato! Ecco, ha trovato! Fu Giovanni Boccaccio, in principio c'era da cercare, ma trovò, e quindi il tempo di Gioacchino Rossini. No, non si può essere seri nella patria del grande Gioacchino Rossini. Va crescendo, va ronzando, comunque venticello. In tutto questo arriva, coi modi del moderno, arriva l'epoca dei giudici. Cosa vuol dire avere 1,5 metri di statura? Ve lo rivelan gli occhi e le battute della gente. Ho la curiosità. Ma viene incoglie nell'Italia di Boccaccio e di Rossini alle cene eleganti, e da Bari il tribunale stabilisce che poco eleganti sono state le cene di Silvio Berlusconi. E la sentenza per Giampi Tarantini, dispensatore di intrattenimenti notturni, e di condanna. Mario, 7 anni e 10 mesi di reclusione. Giampi Tarantini, prima che vuoi. Però prima di passare alla lettura delle motivazioni, però, se proprio in virtù della commedia, sempre da questo canone, secondo me è utile ascoltare il celeberrimo discorso del professor Sassaroli, da Amici miei, atto terzo, che fu magister di cene eleganti. Signori, sono il professor Sassaroli, ex medico chirurgo di chiara fama. Essendomi accorto in tempo di essere rincoglionito, più o meno come lor signori, ho deciso di alienare la clinica di mia proprietà ed ho acquistato questa ignobile baracca, di cui sono quindi il nuovo proprietario, nonché direttore. Molte cose devono cambiare qui dentro e sarò inflessibile. Intanto la chiave del portone a tutti, ma a condizione che nessuno ritorni prima delle 3 di notte. Divieto di ubriacarsi meno di 3 volte alla settimana. Divieto di cessare gli schiamazzi notturni prima dell'alba. Queste sì che erano le cene eleganti, questo desinare che è stato negato al povero Berlusconi, i cui costumi sono considerati dai giudici reprensibili. reprensibili costumi con le ragazze, leggiamo dalle motivazioni, avvenenti, provocanti, disinvolte, spregiudicate, disinibite e soprattutto giovanissime. Pronte a soddisfare, leggiamo sempre dalle motivazioni, anche le più perverse pulsioni erotiche, addirittura, c'è un addirittura, attraverso la consumazione di rapporti saffici. Ora io non so che cosa vogliano dire, sta cosa proprio non lo so, perché essendo ragazzo di paese queste cose non le capisco. Comunque una cosa è certa, in principio fu la commedia e sul finale si tornò al vizietto. Il numero verde 349-238-6666, l'SMS. Oggi è Milano e fino a sabato ci sarà la tre giorni del Festival dell'Energia, l'energia spiegata. Il tema centrale sarà il diritto al futuro. Ecco, Marta Dassù, direttore della rivista Spegna, relatrice della tavola rotonda sulle nuove coordinate energetiche. Ecco, quali sono principalmente queste nuove coordinate di fronte alla crisi del prezzo del petrolio? Ma prima di tutto c'è quello che lei dice, e cioè un prezzo molto basso rispetto agli anni passati, era attorno ai $100, sta adesso attorno ai 40 e non si prevede che possa tornare molto più in su. Quindi questo problema crea dei vincenti e dei perdenti nella geopolitica dell'energia, diciamo così. E chi sono i vincenti e i perdenti? Ma i vincenti sono i grandi importatori, a cominciare dalla Cina, in teoria anche l'Europa, dove però questo prezzo così basso rende più difficile di conseguire gli obiettivi inflazionistici che ci servirebbero a ridurre il debito. I perdenti sono i grandi produttori che non hanno diversificato la loro economia, da Russia al Venezuela alla Nigeria, meno l'Arabia Saudita perché ha più riserve finanziarie, quindi più capacità di resistere. Ma l'Arabia Saudita è in effetti impegnata in una grande riforma interna. Ecco, parliamo di questa riforma interna dell'Arabia Saudita. Ha un piano per rinunciare praticamente, o comunque ridurre molto la dipendenza dal petrolio entro il 2020 e investire nelle rinnovabili per arginare questa dipendenza. È una scelta obbligata o una scelta strategica? Obbligata, perché attualmente l'Arabia Saudita dipende il proprio bilancio al 70% dalle vendite di petrolio, e l'Arabia Saudita ha scelto di difendere le proprie quantità, le proprie quote di mercato, e quindi di non far risalire il prezzo all'interno dei vertici OPEC, ma è anche una scelta strategica perché si lega a una successione difficile. Il principe ereditario Bin Salman sta cercando veramente di creare un'economia più diversificata e si lega a una situazione strategica in cui c'è un'erosione molto netta del rapporto fra l'Arabia Saudita e gli Stati Uniti, legato proprio all'energia. Che è un rapporto che sta cambiando. Quindi. Sta cambiando perché gli Stati Uniti stanno diventando un grande produttore di energia grazie alle nuove tecnologie, tight oil, shale gas, e l'Arabia Saudita ha tentato, tenendo molto basso il prezzo, di mettere in difficoltà i nuovi produttori americani, certo, e di mettere in difficoltà quello che è il suo grande oppositore potenziale nella regione, cioè l'Iran. Ecco, un'ultima cosa, il terrorismo, cioè le minacce dell'ISIS, sono legate o no agli andamenti dei prezzi del petrolio? Ma certamente ISIS in parte si finanzia con i proventi del petrolio, in Iraq ad esempio, dove controlla alcuni piccoli giacimenti, in Siria, per fortuna non in Libia, dove ancora, speriamo mai, al controllo di giacimenti. Quindi è fondamentale riuscire ad interrompere certo, questo flusso. È una guerra energetica e finanziaria quella da condurre contro l'ISIS, ed è fondamentale che la Libia non si frantumi ma resti uno Stato unito. E allora lo ricordo, da oggi fino a sabato a Milano il Festival dell'Energia, l'energia spiegata, sostenibilità, innovazione e geopolitica. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS, pubblicità. Mix 24. Allora Mario, una bolla ancora. Abbiamo una bollettina, un po' di musica. What La guerra ha colpito ancora, oh. Sempre, oramai. Oggi è contenta, Joe Cocker, non è un po'. Allora Giovanni, io ti voglio parlare della BBC. So che l'argomento a te è molto caro, appassiona, sì. Però oggi c'è un appuntamento molto importante, perché il governo inglese presenta la sua riforma, un libro bianco in questo caso. E il segretario alla cultura John Whittingale, che lo presenta, proporrà una nuova carta per la BBC, durata 11 anni, contratto di servizio che si rinnova di anno in anno per quanto riguarda soprattutto i soldi da dare, azzeramento totale degli attuali vertici, nuovo board per la gestione giorno dopo giorno, day by day, della TV, nuovo sistema di controllo pubblico, una commissione diciamo del Parlamento, un taglio del 20% del budget fino al 2020, pubblicazione dei compensi delle star che eccedono le 450.000 sterline l'anno, aumento delle tariffe legato all'inflazione, questo gli hanno concesso. Cioè, tariffe significa il canone. Il canone. E allora, e chiaramente noi parliamo di una cosa molto grande, perché è un punto di riferimento del mercato televisivo non solo europeo, mondiale. BBC è un gigante, è un terzo dell'audience televisiva, metà di quella radiofonica, il 15% del traffico online. E, insomma, è un modello al quale forse, no? Un modello interessante, perché tutto sommato loro hanno fatto un anno e mezzo di lavoro nel paese per raccogliere le opinioni. Anche noi abbiamo fatto un giorno di Leopoldina, e quindi diciamo non è proprio che la stessa più o meno cosa. Più o meno, beh, però noi siamo più veloci a capire cosa pensa la gente, però, e quindi insomma, noi abbiamo questo canone, modello, ma il canone è tutto noi abbiamo questo canone che adesso dovrà essere pagato, e leggo che Cairo si sta muovendo, chiedendo anche lui, dice: io faccio programmi di servizio pubblico, vorrei una quota del canone. Sarà una partita libero interessante, mercato, secondo me. Vedere come va a finire il diritto. Il ma diritto, tu cosa pensi? Ma io penso che in un sistema multimediale, multipiattaforma, con palinsesti ormai fai da te, ci sia un'interessante possibilità di mettere almeno a gara quella quota di risorse che deriva dal recupero dell'evasione del canone. Cioè, se si mettessero a gara, dice, sono 200 milioni di euro, diciamo, bene, su questo facciamo la gara, pubblico o privato, chi ha i progetti più belli, anche la RAI ovviamente, concorre, chi ha i progetti più belli acquista. Questo aiuterebbe a alzarsi la qualità media del prodotto televisivo, secondo Pietrangelo? Me. Io volevo dire solo una cosa: canone o meno, servizio pubblico o meno, una cosa è certa: nell'era di Matteo Renzi c'è meno libertà nella televisione di Stato. No, ma comunque, questo bisogna intanto non c'è ancora la televisione di Stato di Matteo Renzi, ancora i palinsesti e loro si sono portati avanti. Possiamo dire comunque una cosa ai nostri ascoltatori: oggi ci sarà il libro bianco inglese e noi sicuramente faremo una puntata alla faremo fine una su puntata questo. Sul libro bianco inglese, e sentiamo Gloria Guerrera per chiudere che cosa ci propone. Oggi è una canzone per chi oggi, ma solo oggi, preferisce nascondersi in un pozzo piuttosto che allungarsi su un piedistallo. Morgan, Altrove.